fine non c'è più speranza. E sinceramente anch'io non provo più ansia. Sono stato dalla tua bocca il tuo cuscino per dormire, ma ormai mi hai detto che sta tutto per finire. Sono stato calmo per le offese di tuo padre, di quando mi insultava perché non potevi studiare. Sono stato zitto senza fiatare, sono stato il tuo pilastro quando stavi per crollare. E con te un pianto sono stato me stesso, e non ho mai pensato che il nostro amore fosse solo sesso. Purtroppo sto a terra con birra e sigarette, perché pensavi che ti mettessi le manette. Ho sbagliato e l'ho sempre ammesso, ma da quando i tuoi erano te non ero più lo stesso. Hai detto che abbiamo punti di vista differenti, ma parlando arriviamo agli stessi argomenti. Hai detto che ho sbagliato, ero ubriaco il fatto, ma in tutto ciò non mi avevi detto che c'era un altro. E adesso mi sento male, sarà che mi manchi o che alla fine adesso posso volare. Solo questo dolore che non va ma resta e resta, come quando andavo fuori di testa, trattato da te e dai tuoi come carta festa. Come quando mi colpavano di rovinare la tua famiglia, voi giocatori invece una semplice figlia. Siete una cosa sola, la gelosia che divora ogni cosa che trova. Scoppi di rabbia sei solo insieme ad un'altra, fammi una sigaretta e fai la finta fatta. E barcollavi bevendo acqua gassata, ora la sera nei pub fai la finta ubriaca. Hai detto che stai bene ma continui a pensarmi, e sui social ovunque non fai che ricordarmi. Non capisco il tuo bisogno di mentire a te stessa, dici che non mi ami ma sorridi a una carezza. Ho la mano che mi trema e il cuore a 2000, perché mi hai detto che nulla sarà più come prima. Non serve a nulla piangere o gridare o starci male, finché ci saranno i tuoi a volermi odiare. Ti senti con uno che la mia brutta copia fa male, ma una copia non sarà mai come l'originale. E ora ti vedo qui e mi metto a sedere, ma è solo l'effetto di questo continuo bere. Ridere sempre per renderli migliori. Ti ho detto basta, non posso più tollerare. Più ti davo fiducia, più continuavi a sbagliare. Su di te non ho nessun giudizio, so solamente che il lupo perde il pelo. Da.